modesta il suo cordoglio. Chi a ti cela, fello? Oh, quei è l'orgoglio bassa che le prendo. Si di legger, non obbedisce Orlando. Orlando, a tempo aggiunge, si lusinghi, si acquisti il tempo guerriere contro le sane tue armi della gestilla. Oh, rinomato, valoroso campione, oh, in evento è grande, sopra di quanti mai corresse l'asta, riverente sulla invitta tua destra, bacio da segui umilmente in primo. No, gran diva che tale certo tu sei, poiché si rara e tanta beltà non vanto mai donna mortale. A me tocca offerire in bacio umile sulla bianca tua mano in voto il core. Sì, si accendesse almeno d'angelica il mio bene, anco a costo del sangue, anco a rischio di vita, vagheggiar la beltà, servir la brava. Il sangue spargerei, la vita lascerei. Ella mi regna giunse un nuovo sole col suo bel volto. Tu, nuova gloria aggiungi, ten prego, in restar mei coi regni miei, vedi, eroe. Qui vagisce, qui pargoleggia amore, qui adule tuo fuoco, qui vibra le genio mio la faccia e le parla. Spera, non mi dispiace, e ti consola.